Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova, a cura di Andrea Canton. Bentornati carissimi ascoltatori, sono Andrea Canton e questa è la decima puntata de Il bene di tutti, parliamone, rubrica pensata dall'Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova per analizzare le ultime novità nei campi dell'economia, della politica e della vita sociale, alla luce sempre degli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa. Poche settimane fa si è tenuto a Padova il congresso provinciale del PDL, che ha lasciato dietro di sé un profondo strascico di polemiche. Contemporaneamente a Genova, le primarie del centro-sinistra hanno decretato la sconfitta di un PD diviso e incapace di proporre una visione unitaria. Come funzionano i partiti in Italia? Prima di darci una risposta, proviamo ad ascoltare un brano del compendio della dottrina sociale della Chiesa, che ci sarà molto utile a questo riguardo. Dal compendio della dottrina sociale della Chiesa. I partiti politici hanno il compito di favorire una partecipazione diffusa e l'accesso a tutti a pubbliche responsabilità. I partiti sono chiamati a interpretare le aspirazioni della società civile, orientandole al bene comune, offrendo ai cittadini la possibilità effettiva di concorrere alla formazione delle scelte politiche. I partiti devono essere democratici al loro interno, capaci di sintesi politica e di progettualità. I partiti in Italia favoriscono veramente una partecipazione diffusa? Permettono a tutti l'accesso alle pubbliche responsabilità, ma soprattutto sono democratici al loro interno? Esiste discussione, dibattito, confronto che faccia emergere le ragioni di tutti e ponga le basi per dei progetti comuni? Ne parliamo con Domenico Menorello, già vice sindaco di Padova ed esponente di spicco del PDL della Città del Santo. Buonasera avvocato Menorello, grazie per essere con noi. Grazie a voi, un saluto ai nostri ascoltatori. Abbiamo appena letto questo brano dal compendio della dottrina sociale della Chiesa, ma mi dica Menorello, i partiti in Italia si possono definire democratici al loro interno? Ahimè no, temo che soprattutto negli ultimi 15 anni ci sia stata un'involuzione in questo senso. Se noi guardiamo il dato più eclatante che in qualche modo ha avviato poi il dilagare di un centralismo non democratico, dico il dato più eclatante è sull'attuale dirigenza parlamentare. Quella attuale dirigenza parlamentare è frutto, diciamo pure, dal famoso referendum contro il sistema proporzionale, non ricordo più neanche anno, forse sono negli anni 90 in poi, è frutto di indicazioni che sono sempre più attribuibili al potere centrale di un partito, perché ricordo che in tutti i vari sistemi elettorali questa dinamica si è via via accentuata. Anche quando c'erano i collegi uninominali, con il precedente sistema elettorale c'erano i collegi uninominali e una quota di listino bloccato, nel senso che le liste erano predeterminate per il 25%, ma anche nei collegi uninominali ricordo come vi fossero i collegi cosiddetti certi e quelli incerti. Ecco, sicuramente sui collegi certi venivano indicati candidati al Parlamento che rarissimamente avevano le ragioni, trovavano le ragioni di questa scelta in una militanza nel territorio, in legami col territorio o in una particolare rappresentatività del territorio, nonostante il collegio uninominale dovrebbe essere uno dei sistemi che più di altri spinge proprio su un concetto di rappresentanza territoriale. E invece questo non è avvenuto. Poi naturalmente il sistema, questo sistema per così dire centralista, si è via via accentuato con l'attuale legge elettorale che ha affidato a delle liste compilate centralmente nel compito di individuare i candidati al Parlamento, per cui si è, come dire, proprio rescisso il legame fra il parlamentare e il territorio. Questo poi ancora chiaramente quando si forma una classe dirigente diciamo al massimo livello della rappresentanza politica, è chiaro che questa vuole poi condizionare le scelte anche sui livelli di governo più territoriali e a mio modo di vedere, infatti, nelle ultime tornate, almeno dal 2004 in poi, anche i sindaci, soprattutto nei comuni, i presidenti di provincia, i sindaci nei comuni con popolazione importante, il capoluogo e altre con popolazione significativa, altri centri con popolazione significativa, sono stati sempre più via via frutto della volontà di chi aveva il potere nel partito e non di una ricerca del consenso. Devo dire poi che negli ultimi due anni, forse tre, forse questo sistema sta finalmente mostrando tutte le degenerazioni cui porta, fra cui questo scollamento di cui si parla, questa ondata di antipolitica, alla quale si dovrebbe reagire con una politica con la maiuscola, e mi pare che il concetto espresso dal compendio sulla dottrina sociale della Chiesa indichi la strada. Infatti, in effetti, soprattutto dal basso abbiamo visto varie forme di autoconvocazioni o di richieste di maggior democrazia, in particolare da più parti si invoca il sistema delle primarie che adesso stiamo anche guardando in atto nell'ennesima campagna elettorale americana, in questo caso repubblicana, e che dovrebbe in qualche modo invertire la dinamica di selezione della classe dirigente, riportando cioè la necessità che il candidato poi al Parlamento piuttosto che a sindaco sia effettivamente qualcuno che gode in ipotesi di una rappresentanza, e quindi di conseguenza poi la campagna elettorale dovrebbe ancora di più favorire questo contatto fra chi si candida e il popolo, e di conseguenza poi anche durante il governo, chi governa, se sa che la sua ricandidatura o il suo giudizio sul suo operato non dipende dal capo, fra virgolette, che sta magari a Roma o a Milano, ma dipende soprattutto dalle opinioni, dai giudizi che si formano nella gente, nell'elettorato, è chiaro che si inverte il trend in senso virtuoso, nel senso democratico, secondo l'auspicio della dottrina sociale citata. Ci fermiamo per qualche istante e torneremo fra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova. Bentornati carissimi ascoltatori, siamo con l'avvocato Menorello, già vice sindaco di Padova ed esponente di spicco del PDL locale. Buongiorno. Buongiorno a voi. Molti anni fa ormai, sono vice sindaco di Padova, ma comunque fa niente. Fa sempre curriculum. Ah, ecco, sì, da questo punto. Curriculum giovanile in questo caso. Lei ha parlato di capo prima, infatti la Seconda Repubblica, che per qualcuno si è appena concluso, ha visto un forte incremento di potere per la figura del leader di partito. Quanto è importante il leader e quanto la sua influenza può essere decisiva, preservando però allo stesso momento il dibattito interno e la democraticità all'interno di una stessa forza politica? Bella domanda. Mi verrebbe istintivamente da rispondere che le due dinamiche sono antitetiche, nel senso che abbiamo visto che questi anni più i partiti si sono nati come partiti personali o parapersonali, poi in alcuni casi magari sono partiti di un'oligarchia, cambia poco, se è di uno o se è di dieci, insomma, il concetto sono varianti dello stesso tema. Più il partito è personale, più normalmente chi comanda sceglie meccanismi di selezione della classe dirigente centralisti, cioè che tende purtroppo a premiare più una certa fedeltà intesa come fedeltà, diciamo, acritica, chiamiamolo così, piuttosto che una dei collaboratori che abbiano anche una propria specificità, un proprio peso specifico, una propria capacità di rappresentanza del territorio, di idee, così. E cosa si può fare per cambiare questi criteri, perché comunque non vengano premiati con posti in Parlamento, con ruoli di potere, i famosi portaborse, ma dei veri e propri portatori di istanze locali e del popolo? Ma mi sono convinto, nel mio piccolo, per tanti anni ho provate tante, anch'io nel nostro piccolo, ripeto, ci abbiamo fatto gli autoconvocati, abbiamo raccolto le firme, abbiamo insomma se ne fate, chiesto mille volte le primarie, sempre con scarsissimi risultati. Però gutta cavat lapidem, e poi il tempo del raccolto, come si sa, non è nelle nostre mani. E come si fa? Si fa che secondo me la realtà, come diceva il grande Shakespeare, supera, no, i progetti, ed in effetti oggi vediamo che c'è una ribellione, cioè che questa esagerazione di una logica autoreferenziale di fatto sta portando i partiti ad aver perso, direi tutti, chi prima, chi dopo, chi prima, chi dopo, ad avere delle sensibilissime perdite di consenso. Quindi è chiaro che poi alla fine questo è un sistema che sta andando in cortocircuito. Dopo tot anni l'elettorato punisce, diciamo così, questa logica non votando i partiti tradizionali, poi via via poi rifugiandosi in forme più o meno, che a me paiono a volte surrogati, ma insomma di consenso, di protesta. Comunque resta il fatto che più i partiti hanno utilizzato sistemi centralistici, più oggi, ed è un fenomeno forse degli ultimi 2 o 3 anni, stanno progressivamente perdendo consensi. È chiaro che a quel punto, e un po' quando un partito comincia a perdere consensi, qui abbiamo nel Veneto partiti che ne hanno perso 20 punti percentuali in 7, 8, 10 anni, quindi non sono bazzeccole. È chiaro che a quel punto il sistema va in cortocircuito, e gioco forza, si capisce che se si vuole sopravvivere, se si vuole in qualche modo, bisogna necessariamente avere il coraggio di un colpo d'ali, se non per scelta, per necessità. Potrei farle una domanda generica sul futuro dei partiti in Italia, ma gliene faccio una precisa. Nel 2013, quando andremo a votare per le politiche, sì, che partiti ci troveremo sulla scheda, che coalizioni? Le stesse o ci saranno dei cambiamenti radicali? Ma io punterei più di qualche fish sul fatto che ci saranno dei cambiamenti radicali, perché ho l'impressione che i partiti, quelli che vediamo oggi, francamente sono partiti che danno l'impressione di essere molto in una fase decadente e di non trovare una linfa nuova. Quindi è molto probabile, secondo me, che ci possano essere delle altre iniziative politiche, bene o male, sia il centrodestra che il centrosinistra stanno, come coalizioni, stanno subendo delle fratture più o meno accentuate, ma fratture, cioè che sia il PDL con la Lega al suo interno, il PDL al suo interno, il PD con l'Italia dei Valori all'interno del PD, quindi è evidente che è un sistema che sta entrando in fibrillazione, e ci si ridomanda dove stia il collante ideale per lo stare assieme. Forse a volte ci sono gli attuali schieramenti derivano più da fattori storici o contingenti che non da vere condivisioni di piattaforme ideali o di esperienze comuni, e forse oggi c'è una domanda di c'è una ricomposizione possibile? Io credo di sì, ripeto, il centrodestra e il centrosinistra vivono dei momenti di fratture interne, perché chiaramente sui contenuti ci sono delle distanze all'interno delle singole coalizioni, ed è probabile che ci sia una ricomposizione. Sì, queste fratture ci sono molto spesso anche all'interno degli stessi partiti, credo. Sì, ma non credo che noi dobbiamo, e questo però deriva, da volte ci scandalizziamo per questo, e questo deriva dal fatto che abbiamo vissuto degli 10-15 anni appunto in una logica di partiti in cui prevalevano le figure soggettive più che i contenuti oggettivi. Invece io penso che dovremmo tornare a pensare, ma mi pare anche coerente con il tema della sussidiarietà, cioè che non dà alla politica il potere di salvare, dalla politica un ruolo di servire. Quindi ci possono essere degli spazi politici in che si riconoscono, ad esempio nel principio di sussidiarietà, piuttosto che si differenzia da un neostatalismo, ad esempio, o nella difesa della vita, ad esempio, ma all'interno dei quali ci possono essere più sensibilità, diverse sottolineature, diverse sfumature, diversi modi anche di sentire lo stesso ideale, ma questo secondo me non deve assolutamente essere l'obiezione. Anzi, io auspicherei dei partiti che ospitano al loro interno una vera pluralità, però che sappiano poi fare sintesi attorno ai grandi ideali, e questo dia poi si rinnesti quel circuito virtuoso di anche competizione interna nel senso di dibattito, che poi alla fine è una linfa della democrazia. Quindi sono più dei partiti come case, insomma, all'interno di una casa ognuno ha la sua personalità, ma non per questo anzi forse proprio questo rende il vivere insieme molto stimolante. Lei parla di ricomposizione dei partiti politici. I cattolici da 20 anni hanno subito questa diaspora dopo la fine della Democrazia Cristiana. Secondo lei è un bene che i cattolici siano distribuiti tra tutti o quasi tutti i partiti politici, o i cattolici, per farsi riconoscere meglio e per poter portare avanti le loro battaglie, farebbero bene a tornare in una più o meno raffazzonata Balena Bianca? Ma chissà rispondo a questa domanda. Io posso dire questo, che i cattolici oggi sono in più partiti, e dove sono spesso vivono una marginalizzazione importante. Quindi forse hanno dato poca prova di saper fare battaglie comuni, almeno sui grandi temi o sui valori non negoziabili, a cui ci ha richiamato più volte il Magistero del Pontefice. Io non credo assolutamente, cioè se noi ci ponessimo il problema di un partito di cattolici sarebbe un problema ideologico, e secondo me non aiuteremo né i cattolici né la missione della Chiesa assolutamente, perché non è dalla politica che passa innanzitutto questo. Tuttavia forse che i cattolici sappiano di più fare alcune battaglie assieme, di questo secondo me c'è oggi più che mai l'esigenza, particolarmente sui temi della difesa della famiglia, della vita, e anche di un'economia basata sul lavoro piuttosto che sulla speculazione. Quindi che ci sia, se poi per fare assieme queste battaglie è più utile stare meno frazionati, venga, ecco, anche se non è un partito di cattolici, ma per esempio io penso al Partito Popolare Europeo, non è un partito di cattolici, ma certamente è un partito in cui i cattolici dialogano anche con altre culture e incidono sensibilmente sui contenuti delle politiche fiscali, delle politiche familiari. Ecco, forse questo è il modello a cui potremmo guardare, quindi un partito pluralista in cui naturalmente la dottrina sociale e chi si ritiene che la dottrina sociale sia un orientamento interessante, più corrispondente per l'azione politica, possa avere più spazio e subire meno la marginalizzazione, che sia nel Partito Democratico che nel PDL, e non parliamo poi di altri, i cattolici hanno subito questi anni. Grazie infinite Manorello per il tempo che ci ha concesso, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buon lavoro. Ci troveremo nuovamente martedì prossimo, carissimi ascoltatori, sempre alle 18:25 su queste frequenze. Potete riascoltarci con il podcast sul sito di Blu Radio Veneto. Per contattarci mandateci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, l'appuntamento con noi è a martedì prossimo. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova.